Letture di Radio 24. Il caso dell'ex poliziotto arrestato per tentato omicidio per aver ferito chi gli stava rubando l'auto è solo l'ennesimo esempio delle storture di una giustizia che non condanna quasi mai rapinatori, ladri e stupratori, ma si accanisce contro chi cerca di difendersi. Una legge del 2006 stabilisce il diritto di difendersi a casa propria, ma solo se c'è il rischio di un'aggressione o se il ladro non desiste. Ma come fa a saperlo il cittadino che viene derubato? Se lo domanda Gaetano Pecorella, docente di diritto e procedura penale, in un articolo pubblicato su Panorama. Difendere la propria vita, quella dei propri cari e i propri beni è un diritto naturale, prima ancora che sia lo Stato a riconoscerlo. Come accade allora che attorno a questo diritto ci sia tanta incertezza? La risposta è che difendersi è un diritto, ma come tutti i diritti ha dei limiti. Il primo limite è che ci si debba difendere e non reagire, o ancor meno vendicarsi uccidendo senza necessità. Se il ladro fugge, ormai l'aggressione si è conclusa, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, come dice il codice penale, è terminato. Ma anche in questa situazione, che parrebbe del tutto chiara, non tutto è evidente. Il proprietario ha il diritto di difendere non solo la propria incolumità, ma anche le proprie cose. Se il ladro sta fuggendo portando con sé la refurtiva, la vittima può sparargli per salvare i propri beni? Il pericolo è ancora attuale, così come è attuale l'offesa al diritto di proprietà. Se ciò è vero, e lo è, perché i pubblici ministeri arrestano chi ha sparato e ucciso? Subentra qui il secondo limite al diritto di difendersi. La difesa deve essere proporzionale all'offesa. L'aggredito, perciò, deve usare il mezzo meno offensivo che ha a disposizione e deve produrre il minor danno possibile all'aggressore. Non si deve uccidere se si può ferire, non si deve uccidere se la cosa sottratta è di poco valore o ancor meno se il ladro colto sul fatto è fuggito a mani vuote. Non sempre, naturalmente, è facile fare questo bilanciamento. L'aggredito non ha una bilancia in mano. Tuttavia, qualche regola si può stabilire. Chi uccide volontariamente potendo fermare il ladro in altro modo, per esempio sparandogli alle gambe, risponde di omicidio volontario, punito con non meno di 21 anni di carcere. Chi vorrebbe fermare il ladro, ma per imperizia, un errore nell'uso dell'arma, lo uccide, sarà giudicato per omicidio colposo, delitto assai meno grave. È facile scriverlo, assai meno agire in conseguenza. È certo che il senso di insicurezza è forte e diffuso. Il legislatore ne ha tenuto conto e nel 2006 ha previsto una particolare ipotesi di legittima difesa. C'è sempre proporzione, secondo questa norma, se il ladro viene sorpreso nell'abitazione o in un negozio. Attenzione però che anche in questo caso la legge indica un limite, superato il quale non vi è più legittima difesa. Deve sussistere un pericolo di aggressione e il ladro non deve aver desistito. Ciò significa che si presume che la reazione, anche l'uccidere, sia legittima, a condizione che il ladro, colto sul fatto, non fugga, desistendo, e che vi sia pericolo di aggressione. Come si possa stabilire, nel cuore della notte, se il ladro ha intenzione di aggredirci in casa nostra? È domanda che si dovrebbe rivolgere al legislatore. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Gaetano Pecorella, Quella difesa è legittima ma anche confusa, da Panorama del 24 febbraio. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Letture di Radio 24. L'industria del falso fattura in Italia 7 miliardi di euro, producendo ogni anno 130 miliardi di pezzi. Soprattutto nel settore detersivi e cosmetici. Non è un problema solo per il fisco. Sono soprattutto i consumatori a rimetterci. acquistando inconsapevolmente prodotti potenzialmente dannosi. Ma esiste un modo per difendersi e per riconoscere i falsi. Confezionavano l'Infasil, il detergente intimo più conosciuto e utilizzato in Italia, in uno stabilimento improvvisato, dove si lavorava al di fuori di qualunque norma igienica. Nella stessa stanza, solo pochi metri più in là, producevano liquido anticorrosivo, venduto come Mister Muscolo, e un anticalcare per lavastoviglie identico al Calgon, miscelando polveri provenienti da Hong Kong ad acqua del rubinetto. Scarti e residui, ovviamente, venivano sversati nel water e quindi nella fognatura senza alcun tipo di filtro. Da quel polo industriale fuori legge sono partite milioni di confezioni di detersivi, cosmetici e prodotti per l'igiene della casa, contraffatte e poi vendute in negozi, bancarelle e piccoli supermercati di tutta la Campania, oltre che di Toscana e Lombardia, e forse di tutto il resto d'Italia. La punta molto pericolosa di un iceberg contro cui l'Italia rischia di schiantarsi come il Titanic. L'industria del falso negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale. Se si guardano i prodotti sequestrati dalla sola Guardia di Finanza, si passa dai 34 milioni di pezzi del 2003 ai 130 milioni del 2013. Di questi, 6,5 milioni di confezioni sono proprio detersivi e cosmetici. Il giro d'affari della contraffazione nel nostro paese ammonterebbe a circa 7 miliardi di euro. Uno studio del Censis, commissionato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha quantificato in quasi 5 miliardi di euro il mancato gettito fiscale che ne consegue ogni anno, per non parlare dei danni che i prodotti taroccati rischiano di provocare alla salute dei consumatori. Ma di fronte al rischio di acquistare un prodotto il cui contenuto non è stato controllato da nessuno, che armi abbiamo per difenderci? La prima regola è quella di non fidarsi mai di canali commerciali in cui si applicano abitualmente sconti che vanno oltre il 30-35%. È bene poi controllare l'etichetta. I falsari la incollano a mano, per questo spesso non è centrata o stesa alla perfezione. Cercate la dicitura «prodotti destinati all'Italia». Se non c'è, o se c'è ma poi è seguita da scritte in lingue straniere, probabilmente abbiamo tra le mani un falso. Bisogna controllare anche la quantità del contenuto dei flaconi. L'imbottigliamento automatico è costoso, per questo chi bara ne fa meno e non riesce a versare sempre la stessa quantità di liquido. Inoltre la qualità dei contenitori è scadente, al tatto è meno liscia e spesso finisce col provocare rigonfiamenti. Un altro elemento che dovrebbe metterci in guardia è il tappo di sicurezza. La legge vuole che per i prodotti di igiene personale e della casa ci sia il tappo spingi e apri per salvaguardare i bambini, ma costa troppo e i falsari non lo usano. Infine, nel caso delle spugnette abrasive gialle e verdi, dovete ricordare che quelle originali della 3M hanno un logo di color nero impresso sulla parte gialla che non scolorisce mai. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Barbara Cataldi «L'industria clandestina fattura 7 miliardi di euro» dal Fatto Quotidiano del 15 febbraio. Chi acquista l'imitazione di un prodotto di marca spesso è consapevole che a quel prezzo non può trattarsi dell'originale e a volte è proprio il prezzo la vera discriminante. Ma c'è anche chi sceglie di puntare esclusivamente sul prezzo, rivolgendosi a quella fascia di popolazione che non può permettersi di acquistare i prodotti di marca, senza proporre falsi o imitazioni, ma solo prodotti non di marca che costano poco, anzi pochissimo. La sfida arriva da un discount di Londra, dove la settimana scorsa l'imprenditore di origine greco-cipriota Stelios Agi Ioannou, proprietario della EasyJet, ha inaugurato il primo Easy Food Store, un supermercato dove tutti i prodotti alimentari costano 25 centesimi di sterlina al pezzo. La filosofia è riassunta nello slogan «Niente marchi costosi, solo cibo al giusto prezzo». Tutto reso più facile dal fatto che Easy Food Store propone una scelta fra 76 varietà di alimenti pronti e cibi in scatola. Niente prodotti freschi come latte o carne, né frutta e verdura, insomma. Per adesso la risposta c'è stata e come, tanto che nella prima settimana di attività il discount ha chiuso i battenti per 2 giorni. Il motivo? Esaurimento scorte. Venerdì mattina, alla riapertura, davanti agli ingressi c'erano già una 50ina di persone in attesa e un cordone di sicurezza per regolare l'afflusso. A fine giornata, le scorte di pasta erano di nuovo terminate. Ora la dirigenza sta pensando di porre un limite alla quantità di merce acquistabile da ciascun cliente. Dopo il tutto a 25 pence di febbraio, la media dei prezzi dovrebbe attestarsi intorno ai 50 centesimi, secondo quanto dicono i portavoce della compagnia. Prezzi talmente irrisori che vari negozianti della zona starebbero sostituendo i rifornimenti dei grossisti col sottocosto del discount. La guerra dei prezzi è cominciata, ma secondo gli esperti è ancora presto per capire se travolgerà le quattro grandi catene della distribuzione alimentare d'oltremanica: Tesco, Sainsbury's, Asda e Morrisons, già molto insidiate su questo terreno dai tedeschi di Lidl e Aldi e dall'ingresso sul mercato di Amazon. Del resto, non è la prima volta che Aji Annu cerca di allargare il brand targato Easy ad altri settori, dai bus ai cinema, agli hotel, fino agli internet caffè, con risultati non sempre esaltanti. Ma le perplessità intorno a questa iniziativa non sono solo di ordine economico. Sulle colonne del Guardian, la giornalista investigativa alimentare Joanna Blightman fa notare come operazioni simili rappresentino la logica conseguenza di quella miseria rassegnata che pervade la narrazione dominante sulla povertà alimentare. I mendicanti non possono essere selettivi. Se sei al verde, devi gioire per un cibo così economico, anche se è così pesantemente lavorato che chiunque potesse permettersi qualcosa di meglio lo eviterebbe. Per decenni, spiega la giornalista, qualsiasi obiezione all'idea che il modo migliore per combattere la povertà sia incrementare la produzione e abbassare i prezzi è stata bollata come un'eresia alla Maria Antonietta. Il famoso «se il popolo ha fame, dategli le brioche», frutto dello snobismo di chi non ha mai dovuto lottare per portare qualcosa da mangiare in tavola. Solo un modello industriale su larga scala e a costi ribassati, si sente dire, può sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. La Blightman spiega perché questa retorica sia convincente solo in apparenza. Attraverso questa propaganda pseudo-democratica e apparentemente inclusiva, abbiamo favorito e spalleggiato un sistema alimentare che distrugge l'ambiente, sfrutta gli animali in maniera disumana, asservisce i lavoratori, minaccia la produzione non industriale, mette a rischio la sicurezza alimentare dei paesi, sposta il denaro dagli investimenti delle imprese locali ai dividendi degli azionisti e fomenta gravi problemi di salute pubblica. Un paradigma che sta fallendo in maniera inesorabile, ma che intanto giustifica le azioni dei veri parassiti del nostro sistema alimentare, ovvero le multinazionali, che si arricchiscono sfornando a basso costo enormi quantitativi di junk food. Noi ci sentiamo di sottoscrivere queste considerazioni e invitiamo a riflettere su alcuni dati. Giusto pochi giorni fa la FAO ha reso noto che l'indice dei prezzi alimentari ha toccato il punto più basso da 7 anni a questa parte. Eppure la stessa organizzazione avverte che nel mondo ci sono ancora quasi 800 milioni di persone denutrite, anche se solo il volume degli sprechi alimentari basterebbe a sfamarli tutti. Nel mondo contemporaneo, la povertà è un problema sociale ed economico, non un problema di scarsità alimentare. Ecco perché non c'è niente di giusto nei prezzi sotto costo di certa grande distribuzione. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Andrea Cascioli, Tutto a 25 centesimi, il vero costo del cibo al discount, pubblicato il 9 febbraio sul sito slowfood.it. Sequestrata 33 anni fa, giace in un deposito ormai ridotta a un rottame. Non ha ovviamente nessun valore, ma allo Stato e ai contribuenti il suo deposito costerà 24.000 euro. È solo uno delle migliaia di casi assurdi di veicoli abbandonati o sequestrati, il cui deposito è infinitamente superiore al loro valore, come racconta Rafael Zanotti in un articolo pubblicato sulla Stampa. La vernice gialla e rossa cade in scaglie solo a guardarla. La gomma piuma della sella si sbriciola. La forcella è inchiodata e la catena è un monoblocco di ferro e polvere. Sul mercato una moto così non varrebbe che qualche decina di euro, il prezzo del ferro recuperato. Ma lo Stato lo pagherà 24.000 euro. Il costo della sua custodia per 33 anni in un deposito mezzi sequestrati della provincia di Monza. Il cartellino giallo appeso al manubrio parla chiaro. Questa Enduro TGM, fabbrica che ha chiuso i battenti 30 anni fa, è stata sequestrata ad Arcore il 16 gennaio 1983. Da allora quel mezzo è rimasto lì, dimenticato. Il suo proprietario, multato per guida senza patente, non l'ha mai reclamato. La polizia non l'ha mai fatto demolire. La prefettura se l'è scordato e il suo costo oggi è diventato astronomico, come quello della Renault 5 bianca sequestrata dai carabinieri e che perde i pezzi in un altro deposito della provincia lombarda. È qui dal 3 dicembre 1988. Calcolando il costo giornaliero della custodia e moltiplicandolo per i 28 anni di sequestro, questo rottame ormai inservibile costerà allo Stato circa 18.000 euro, più di un'auto nuova. Fuori, il deposito è una distesa di catorci che si perde a vista d'occhio. Tutti con il loro cartellino che indica il giorno di inizio custodia. Di casi così in Italia ce ne sono migliaia e sono in aumento. Quando un mezzo viene sequestrato o finisce sotto fermo amministrativo, il proprietario può pagare la sanzione e recuperare il proprio mezzo saldando i giorni di custodia. Ma se non lo fa, e vista la crisi succede sempre più spesso, chi ha operato dovrebbe inviare il fascicolo in prefettura per la confisca, la successiva vendita o la demolizione. Questo nella teoria. Qualcosa invece non funziona. A volte è l'operatore a dimenticare il fascicolo in un cassetto. Spesso è in prefettura il collo di bottiglia. Così i mezzi restano a fare la ruggine con la velocità con cui producono costi. Ironia della sorte nell'era del rottamatore Renzi. Comuni e prefetture giocano allo scaricabarile, mentre i titolari dei depositi rischiano la chiusura. Oggi stanno recuperando fatture emesse 5 anni fa. Ma le cifre sono enormi e oggi, con il sistema della fatturazione elettronica, è difficile ciurlare nel manico. Marta Vanzetto si è occupata dell'esposto che nel 2014 ha inoltrato alla Corte dei Conti, senza per ora alcun risultato. All'epoca il Comune di Verona doveva qualcosa come 2 milioni di euro per i depositi conclusi, alcuni dei quali iniziati 10 anni prima, e pendeva almeno una fattura da 350.000 euro. L'inerzia della polizia locale di Verona e la lentezza della prefettura ha prodotto costi enormi che gravano su tutti i cittadini, dice la Vanzetto. Inoltre, spesso le fatture risultavano emesse anni dopo la fine del deposito. Emblematico il caso di un autocarro sequestrato. Inizio deposito l'8 gennaio 2004, fine deposito il 28 dicembre 2004. Fattura emessa solo il 30 settembre 2013. Perché? Ricostruire le esposizioni dei comuni e dello Stato è arduo, visto che pubbliche amministrazioni e prefetture tendono a far finta di nulla, nella speranza che dopo un po' di anni arrivi una legge che stracci almeno parte delle fatture emesse dai custodi. Se il Ministero dell'Interno, dopo giorni, non fornisce i dati e anche l'ANCI ha difficoltà a far smuovere i suoi, qualche calcolo però è stato fatto. A settembre, al convegno nazionale dell'ANCSA, l'Associazione Nazionale dei Centri di Soccorso Autoveicoli, è venuto fuori che le prefetture di Salerno erano esposte per 6 milioni di euro. E il presidente dell'ASSI, Associazione Soccorsi Stradali Italiani, Gerardo Vegetti, racconta: «Ho crediti nei confronti dei comuni per 600.000 euro e delle prefetture per 160.000. Soldi che, in un modo o nell'altro, bisognerà tirare fuori. E allora lanciamo l'appello. Vendesi TGM non in ottimo stato. Si parte da 24.000 euro. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Rafael Zanotti, Ruggine pagata a peso d'oro, quando i rottami dimenticati nei depositi costano milioni, dalla Stampa del 15 febbraio.